Giorni di bufera per l'esercito italiano. Non è impegnato in qualche gloriosa missione, ma bensì a rispondere alle domande dei magistrati. Le commesse militari, d'altronde, da che mondo è mondo, costituiscono l'appalto prediletto di coloro che vogliono accumulare soldi alla svelta. Dalla clava all'elicottero antiguerriglia si tratta sempre di materiale dal gran valore aggiunto, nel senso che, dovendo servire per la difesa del sacro suolo patrio, al costo effettivo si può aggiungere qualsiasi cifra. Così, l'altro giorno, con la soddisfazione dell'incallito antimilitarista, devo dire, leggo sulla stampa di Torino che sono finiti sotto accusa 2.700 militari per falsi rimborsi spese, che lo scandalo si allarga, che rubavano perfino nei musei, che peculavano su false manutenzioni ai monumenti nazionali, che un colonnello è diventato addirittura miliardario, eccetera, eccetera. Bene, mi dico. L'articolo poi è corredato di due fotografie. La prima è la classica foto di archivio, messa lì per fare atmosfera, fra sterpaglie in zona montuosa, militari al lavoro, uno che spara con il suo cannoncino, uno che imbraccia un fucile, altri che attendono il proprio turno per distruggere qualcosa o qualcuno. La seconda fotografia, con l'atmosfera, secondo me, non c'entra, devo dire la verità. Anzi, oserei dire che più fuori posto di così mi sarebbe stato difficile immaginarla. Sotto questa seconda fotografia ci sono due scritte, una in grande ed una in piccolino. Quella in grande dice: a Catania e Siracusa indagati per truffa 500 graduati. Quella in piccolo dice: l'ex presidente della Commissione Difesa, Falco Accame, chiede un'inchiesta parlamentare sulla vicenda. È abbastanza ovvio che a questa scritta più in piccolo, che sia questa la didascalia della foto, insomma, ma è molto meno ovvio che in quella fotografia non appaia affatto l'ex presidente della Commissione Difesa, perché, vedete, quella che si vedeva inequivocabilmente era la mia faccia. Quella fotografia ha una storia, Me l'aveva scattata un fotografo professionista, Giovanni Giovannetti, in un lugubre mattino di alcuni anni fa, dopo avermi collocato con le spalle al muro della vecchia fabbrica dell'Ansaldo. Era abbandonata da tempo e in quei giorni ci facevamo Milano Poesia. Io ero lì per due motivi, sia per tenere una relazione sull'estetica dal punto di vista costruttivistico e sia per amicizia per Gianni Sassi, un caro amico di sempre che, nonostante la testardaggine con cui continuava a fare cultura, se ne stava andando, irreversibile come il tempo, mangiato da un cancro. Aveva tanta stima di me, Gianni, ma fino da farmi fare la fotografia, ecco. E io ero triste, nero per le sciagurate condizioni contro le quali lottava con il sorriso sulle labbra, ed ero furibondo con il mondo intero perché, nonostante Milano Poesia si facesse da anni, il comune aveva improvvisamente ritirato il nulla osta di agibilità dello spazio. Fatto sta che le forze dell'ordine si davano da fare perché il convegno non avesse luogo e affinché gli intervenuti se ne tornassero buoni buoni a casa. Se non ricordo male, poi durante la notte mi ero anche sentito male. A Giovannetti gliel'ho detto: ma cosa sprechi la pellicola? Lascia perdere, no? A chi vuoi vendere la fotografia di uno come me, uno senza arte né parte, uno a cui, per esempio, uno a cui nessun editore pubblica un libro, uno che non scrive da nessuna parte, uno che al massimo e finché dura lo lasciano parlare una volta alla settimana da Radio Popolare. Mi sembrava un omaggio al mio amor proprio veramente eccessivo, no? Soldi e tempo buttati. Di questo mio umore contrappositivo e di una certa stanchezza rassegnata, come se ne avessi previsto il cattivo uso che l'attendeva, c'è traccia chiara in questa fotografia, che anni dopo torna fuori impertinente. A dimostrazione del fatto a dimostrazione del fatto che a questo mondo c'è un mercato proprio per tutto, perché nell'archivio della stampa c'è pur finita, almeno a titolo di investimento, perché non si sa mai questo cosa possa combinarci in futuro. All'ultimo gradino del valore di scambio, quello dello scambio di persona, anch'io posso orgogliosamente affermare di aver avuto il mio prezzo. Gli atteggiamenti di chi mi conosce d'ora in avanti saranno classificabili in rapporto alle diottrie. Per chi rinuncia alla lettura del corpo 8 e si accontenta facilmente del corpo 12, io sarò uno dei 500 graduati indagati per truffa a Catania e da Siracusa. Non sapevano che in una doppia vita stessi percorrendo una carriera militare e che nelle mie frequenti assenze da Milano bazzicassi fra Catania e Siracusa, ma che avessi un che di truffaldino loro, l'avevano sempre detto. Ma il giorno dopo ce l'ha smentita, Nella rubrica della posta compare una mia lettera in cui denuncio l'accaduto. La mia foto lì, dico, è quantomeno inopportuna. Ma le cose non filano lisce nemmeno in questa occasione. Qualcuno alla mia lettera decide di metterci un titolo e commette così un altro errore. Quella Came non è felice, titola con le maiuscole al posto giusto, e così dice effettivamente il contrario di come stanno le cose. Quella Came, ahimè, è proprio felice, semmai non è Falco. È un caso in cui la voglia del gioco di parole prende la meglio sulle necessità dell'informazione. Succede. Se avessero dimenticato la maiuscola di felice, si sarebbero dimostrati invece buoni interpreti dell'animo umano e delle facce ad esso correlate. Thank you.